Buongiorno e benvenuti a Un giorno alla volta, il devozionale quotidiano sulla parola di Dio curato dalla Chiesa Logos a Firenze. Questa è la riflessione di oggi. Questo è Atti capitolo 16, versetto 31. Essi risposero: "Credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia." C'è una cosa che è rimasta nel nostro inconscio a causa dei film di azione, che i protagonisti vengono sempre salvati all'ultimo minuto. Con poche eccezioni, si aspetta sempre che nel momento di maggiore angoscia, quando la bomba sta per esplodere o il treno sta per schiantarsi, accada qualcosa e arrivi il salvataggio tempestivo. Il passo che abbiamo oggi potrebbe benissimo essere una di queste scene, con la differenza che l'eroe che salva non è un uomo qualunque, non è un uomo con superpoteri, ma il Dio dell'universo che porta la luce della grazia in mezzo alla disperazione. Cerchiamo di comprendere meglio questo passo. Questo evento avviene nel contesto dell'imprigionamento di Paolo e Sila a Filippi. Dopo essere stati flagellati e incarcerati ingiustamente, questi servi di Dio pregano e cantano inni a mezzanotte, mostrando una fede incrollabile. In risposta, Dio manda un terremoto che apre le porte della prigione e scioglie le catene di tutti i prigionieri. Il carceriere, vedendo le porte aperte, presume che i prigionieri siano fuggiti, il che per lui significava un disastro personale e professionale, poiché la sua vita era in gioco se non avesse adempiuto al suo dovere. Nella sua disperazione decide quindi di togliersi la vita, ma Paolo lo ferma assicurandogli che nessuno era scappato. Questo intervento porta al carceriere a una profonda convinzione spirituale. Lui osserva la testimonianza di Paolo e Sila e riconosce che essi possiedono qualcosa di cui lui ha un disperato bisogno. E quindi fa la domanda: che devo fare per essere salvato? Questo rivela un cuore spezzato, consapevole del suo bisogno di salvezza. La risposta di Paolo e Sila è chiara e diretta: credi nel Signore Gesù e sarai salvato. Questo comando sottolinea che la salvezza non dipende da opere, non dipende da tradizioni religiose e non dipende neanche da sforzi umani, ma da una fede genuina in Cristo Gesù come Salvatore e Signore. Credendo, il carceriere ricevette la salvezza personale. La sua vita fisica gli fu assicurata, cosa che probabilmente era una delle sue preoccupazioni principali, ma il Signore salvò anche la sua anima. Credere in Cristo gli permise di vivere più a lungo e anche di vivere meglio, sia lui che la sua famiglia. Il messaggio di questo testo è che la salvezza è un dono divino, accessibile mediante la fede. Ci ricorda che l'opera di Dio non è limitata dalle nostre circostanze, che persino nelle situazioni di disperazione, di dolore, Dio può portare del bene. Ecco tre verità bibliche che possiamo estrarre da questo passo. Numero 1. La salvezza è per fede in Cristo. Il messaggio del Vangelo è semplice: credere in Gesù come Salvatore e Signore. Non c'è un altro requisito, perché tutto il necessario è già stato compiuto sulla croce. Numero 2. Il Vangelo trasforma vite e famiglie. Il carceriere non fu solo salvato, tutta la sua casa sperimentò l'opera di Dio. La fede ha un effetto moltiplicatore quando viene condivisa. Non significa che credendo automaticamente anche la nostra famiglia sarà salvata, ma senza dubbio il fatto che ora la porta del Vangelo si sia aperta per una casa permette la grazia del Signore di estendersi e raggiungere chi è vicino. Non smettere di pregare per la tua famiglia. Condividi con loro come Cristo ha trasformato la tua vita e può trasformare la loro. Numero 3. Dio opera in mezzo alle nostre crisi. Il terremoto non fu solo fisico, ma spirituale. Dio usa le nostre difficoltà per portarci a un punto in cui possiamo ascoltare chiaramente la sua voce. Può darsi che ora tu ti trovi in un momento in cui non vedi una via d'uscita, come in un pozzo oscuro. Ma ricorda che anche in un luogo come quello, la luce viene sempre dall'alto. Alza soltanto gli occhi a Cristo, guarda, confida e riposa in Lui. Preghiamo. Signore, grazie per ricordarmi che la salvezza è un dono per grazia, accessibile attraverso la fede in Gesù. Aiutami a confidare pienamente in Te e a condividere questo messaggio con la mia famiglia e con chi mi circonda. Fa che la mia vita sia una testimonianza viva del Tuo potere di salvare. Nel nome di Gesù. Amen. Oggi leggiamo Genesi 17, Matteo 16, Neemia 6 e Atti 16. Un giorno alla volta è una produzione liberamente tradotta e adattata in italiano. Se desideri approfondire, ricevere ulteriori risorse o metterti in contatto con noi, cercaci online come Chiesa Evangelica Logos. A domani!